ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole, va sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, anche questa settimana siamo con voi. Mercoledì 8 maggio è un mercoledì particolare perché questa settimana è la settimana di Eufonica. Eufonica è un mondo di musica, è la musica in tutti, questo è lo slogan di Eufonica. È un evento di Bologna Fiere Group che si tiene per l'appunto in fiera e al quale noi partecipiamo. Abbiamo partecipato anche alla prima edizione in altra veste perché Dedicato ancora non esisteva, quindi però siamo nati insieme a Eufonica e Eufonica è nata insieme a noi, quindi non possiamo far altro che partecipare quest'anno invece portando i nostri contenuti, la nostra trasmissione radio e il nostro staff, ma non solo. Dedicato coinvolgerà anche il pubblico di Eufonica e chiunque voglia partecipare al nostro laboratorio, che è un laboratorio molto pratico, un po' teorico anche, ma molto pratico, e vi spiegherò poi durante questa trasmissione che cosa faremo e di cosa parleremo, insomma, nel nostro laboratorio. Ma ci tengo a raccontarvi anche Eufonica, di che cosa parlerà e che cosa succederà, perché è una settimana intera che è cominciata il lunedì 6 e andrà avanti fino a sabato 11 maggio. Eufonica quest'anno ospita due grandi eventi. Una è la Settimana Nazionale della Musica a Scuola, che è la sua 35esima rassegna, quindi insomma già più che rodata, direi, e si esibiranno gli ensemble orchestrali, i cori, le bande rock, jazz, pop delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo e provenienti da tutta l'Italia. Quindi diciamo che è un momento, ecco, con studenti e docenti molto importante. Il secondo evento che ospita Eufonica è la rassegna dei progetti finanziati dall'articolo 3 della legge regionale, quindi diciamo che sono eventi finanziati dalla regione Emilia-Romagna per contrastare la povertà educativa favorendo l'inclusione sociale, l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale. I concerti si svolgeranno in questo caso venerdì 10 e sabato 11 maggio e ci saranno protagonisti più di 27 gruppi musicali, ecco, sto leggendo ora. Quindi insomma le scuole capofila saranno insieme con le scuole pubbliche e private e presenteranno i concerti conclusivi del progetto triennale, appunto, finanziato dalla regione Emilia-Romagna. Questi sono i due eventi che Eufonica proporrà durante la settimana, ma nei giorni 9, 10 e 11 di maggio ci sarà tanto tanto tanto altro, perché effettivamente ci saremo anche noi e poi il programma è veramente fitto. Vi invito di andarlo a visitare sul sito eufonica.it e verificherete anche voi, appunto, che ci sono veramente molte cose interessanti, tra masterclass, concerti, veramente personaggi interessanti. Una cosa che curiamo noi, a cui teniamo moltissimo, è una lezione concerto di batteria pop rock tenuta da Ivano Zanotti, che è batterista notissimo in Italia, ma non solo, batterista di Loredana Bertè, di Ligabue, ha lavorato con Vasco. Poi ci sarà un'altra masterclass sempre sul tamburo invece venerdì 10 maggio, tenuta dal maestro Giuseppe Pezzoli, che è stato docente del Conservatorio di Musica Gigi Martini per un sacco di anni. E poi ci sarà appunto lo spazio di Dedicato On Air e laboratorio radiofonico in Eufonica. Quindi ora mandiamo il primo brano e poi torniamo per parlarne insieme. Oh, Michael Jackson con Billie Jean. Ebbene, allora torniamo alla nostra trasmissione, perché questa settimana siamo veramente emozionatissimi di essere anche live all'interno di Eufonica, appunto negli spazi di Bologna Fiere. Come vi abbiamo detto, il 10 e l'11 di maggio ci troverete con un laboratorio. Cosa vuol dire un laboratorio? In realtà è un laboratorio teorico veramente in parte, perché ci fermeremo e ci siederemo a spiegarvi alcune cose di come si fa una trasmissione radio, di come si fa ad essere speaker, cioè cercare più o meno di farsi capire senza mangiarsi le parole, parlando nel microfono, queste cose di base che insomma bisogna un attimo porre all'attenzione di chi vuole fare radio, anche solo amatorialmente, per amor del cielo, non pretendiamo di creare dei professionisti in due giorni, però un minimo di nozioni di base, ecco, interessanti anche da riportare nella nostra vita quotidiana, perché poi quello che è la tecnica vocale, piuttosto che l'utilizzo di alcuni mezzi che la radio porta avanti ancora oggi, insomma servono anche in molti casi anche nella vita, ve lo garantisco, lo so in prima persona. Ma comunque, a parte i primi momenti di teoria, poi ci sarà tanta pratica nel nostro laboratorio, e la pratica è effettivamente quella di girare per Eufonica, la nostra fiera della musica, intervistare le persone, creare degli sketch, creare dei momenti unici che verranno poi trasportati all'interno della nostra trasmissione nelle prossime settimane. Quindi diciamo che il nostro staff sarà presente con questo laboratorio interattivo, dove realizzeremo appunto un po' di tutto, anche un format coinvolgendo il pubblico, gli operatori presenti in Eufonica, e ci saranno le performance da documentare, quindi i momenti più salienti, le fasi organizzative degli eventi, soundcheck, i personaggi con cui parlare e creare dei piccoli sketch. Il materiale che i partecipanti al laboratorio realizzeranno verrà consegnato a noi, staff di dedicato, che lo trasformeremo e lo inseriremo nella nostra trasmissione. Quindi sarete protagonisti direttamente, andrete in onda insieme a noi. Non solo, ci saranno anche insomma momenti conviviali, avremo dei gadget, siamo veramente, cioè, questa volta avanti anni luce. Me lo dico da sola, perché la mascotte non c'è, se no l'avrebbe detto lei, però cioè, poi la mascotte non c'è adesso, non c'è in questo momento, ma è emozionatissima anche lei. Ne abbiamo parlato fino a poco fa di Eufonica e di questo momento laboratoriale, e sappiate che se verrete conoscerete questa nostra piccola mascotte, che non vede l'ora di insegnarvi alcune cose, anzi forse si sta anche troppo esaltando effettivamente, adesso ridimensioniamo questa esaltazione. Comunque, detto questo, noi vi aspettiamo assolutamente, dovete essere nostri ospiti. Quindi venerdì 10 noi ci siamo sia al mattino che al pomeriggio, sabato 11 altrettanto sia al mattino che al pomeriggio, troverete il nostro banchetto. Tenete conto che Eufonica chiude alle ore 18, quindi non venite alle 19 perché non ci troverete, e non venite troppo presto la mattina perché altrettanto non ci troverete, però no, sì, dalle 10 siamo presenti entrambe le giornate fino alle 18. Dentro il peggiore motel, di questa carrettera, di questa vita balera. Crocifissi al muro, sono una foglia d'argento, data da un albero abbattuto qua, e che vorrebbe inseguire il vento, ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. È un volo a planare per essere ricordati qui, per non saper volare. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Non sono una signora, una con pochi sensi nella vita. Oh no. Oh, oh, oh. Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Non sono una signora. Loredana Bertè, la nostra Loredana nazionale, con Non sono una signora. E guardate, veramente mai come in questo periodo dedicato ama Loredana Bertè. Cioè, ormai l'avrete capito, perché chiaramente, insomma, anche solo come si chiama la nostra trasmissione vi potrebbe dare un qualche indizio. Ma noi in questo periodo veramente amiamo Loredana. La amiamo perché sta facendo un tour nei teatri, la amiamo perché dal vivo è qualcosa di speciale, spettacolare, e la amiamo perché è Loredana, appunto, basta. Quindi, e visto che è un amore collettivo, perché non è solo Echi ama Loredana o la mascotte ama Loredana, ma veramente tutto il nostro staff, dai più piccoli ai più grandi. Adesso non sto a fare un sondaggio su chi ama Loredana, perché non vorrei poi farmi odiare con tutti questi sondaggi, però vi garantisco che è un amore collettivo. Quindi grazie Loredana, ogni volta che mandiamo un tuo brano noi dobbiamo passare almeno uno minuto, due minuti, tre minuti, un minuto, facciamo così, uno, a dire quanto ti vogliamo bene. Detto ciò, torniamo un attimo, visto che questa è la settimana di Eufonica, vi rinvito ad andare sul sito eufonica.it, perché è veramente molto interessante questa settimana. Ci saranno convegni, concerti, avremo delle masterclass, quindi io non so da che parte partire, perché se vi dovessi leggere tutto il programma sarebbe veramente enorme. Per esempio, non so, qualche spunto, giovedì 9 ci sarà un convegno, come cambia la vita con la musica, quindi è veramente molto interessante, perché è al cura di MIM, Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratica della Musica per tutti gli studenti. È un argomento importante, ecco, perché veramente la musica cambia tanto, cambia la vita in molti casi. Poi abbiamo appunto un quintetto jazz alle ore 16:30, sempre del 9 maggio stiamo parlando. Poi abbiamo come sviluppare le programmazioni di concerti, quindi anche andare un pochino più sullo specifico del lavoro organizzativo del mondo dello spettacolo. Poi alle 17 c'è un coro di voci dal mondo, poi il giorno dopo, venerdì 10, abbiamo Camminare sul tempo, strategie psicomotorie nell'insegnamento della musica, abbiamo AudioCop, il MEI contro gender gap reale e digitale, quindi la discriminazione del genere e dei generi oggi nell'industria musicale digitale. Poi abbiamo concerti dal vivo, abbiamo altre masterclass, come vi dicevo c'è una lezione sulle tecniche del tamburo tenuta dal maestro Giuseppe Pezzoli, e ci tengo a ripetere anche il 9 maggio, perché prima non avevo detto la data, c'è questa lezione concerto di batteria tenuta da Ivano Zanotti, il nostro big drummer nazionale, sarà alle ore 16, quindi insomma arriviamo a sabato 11 ci sarà l'Erasmus Orchestra, ci sarà la Melodia delle Emozioni, un viaggio fiabesco tra musica e teatro, insomma ci sono veramente molte cose, un workshop sulla voce, abbiamo Armonia di Rinascita, Il Grido di 100 Donne e poi ci sarà un concerto conclusivo alla sera. Quindi vi invito veramente ad andare a vedere il programma, ma non solo, a registrarvi gratuitamente, perché non vi ho ancora detto, Eufonica è gratuito e aperto a tutti, quindi è un evento di una settimana, interessantissimo, gratuito. Più di così io non so cosa dirvi. A questo punto vi dico anche, in fondo alla pagina, alla home del sito di Eufonica, trovate un tasto registrati per partecipare, basta inserire i propri dati e potrete venire Eufonica a fare il nostro laboratorio. Fantastico. Detto questo, allora, consiglio per i naviganti. Chi viene a Eufonica a fare il nostro laboratorio? Qui andiamo nel dettaglio. Prima di tutto, armatevi di tanta buona volontà e gioia di partecipare. Questo sicuro, perché vi faremo correre in giro per Eufonica, vi daremo dei compiti precisi, quindi vi suddivideremo in gruppi, chi vuole andare individualmente può andare anche individualmente, ma sarebbe più bello un lavoro di gruppo, quindi anche piccoli gruppi, 2, 3, 4 persone, però insomma insieme, perché vi darete una mano l'uno con l'altro, nessuno di voi immagino sarà professionista, chi è professionista può fare ciò che vuole e quindi andare anche da solo, però gli altri è consigliato fare piccoli gruppi. Possono partecipare tutti a questo laboratorio, dai bambini, ma intendo bambini anche di 3, 4, 5 anni, accompagnati ovviamente da un adulto, fino alle persone di 99, 100 e 120 anni. Quindi noi apriamo assolutamente a chiunque, non facciamo differenze di genere. Questo sempre per essere precisa, perché non si sa mai. Vi armate di telefonino, perché dovete registrare quello che fate, di eventuali cavetti, fra virgolette, speciali che possa avere il vostro telefonino, perché non si sa mai, perché noi dobbiamo poi importare il materiale che voi presenterete e che realizzerete durante la giornata, insomma. Ci divideremo per eventi, quindi anche in base al vostro interesse, ci sono degli eventi in quel momento a Eufonica da documentare, persone da intervistare, ci divideremo per i vari eventi che ci sono, perché se andate a vedere il programma di Eufonica ce ne sono parecchi anche in sovrapposizione nei diversi spazi, quindi insomma ognuno di voi avrà anche la possibilità di scegliere un pochettino quello che gli interessa di più. Realizzeremo quello che decidiamo assieme, che può essere appunto un'intervista, uno sketch, un momento anche semplicemente di registrazione degli eventi che stanno succedendo. Dopodiché ritornerete dal nostro staff, ci lascerete tutto il materiale che avete registrato, inizieremo già insieme a elaborarlo, a riascoltarlo e a vedere come utilizzarlo nella nostra trasmissione. Quindi questo è quello che succederà, spero veramente che partecipiate in tanti. Io so che il nostro staff, che già è bello numeroso, sarà praticamente tutto presente, quindi già ci aspettiamo un po' di delirio in giro per Eufonica, ma spero che anche voi ascoltatori verrete con gioia a trovarci. Senza fatti e soluzioni, la castità non te regge più, la verginità non te regge più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni non te regge più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Non più. E ala la, non più. Pici pici. Non più. dici dici tre che più picci possibili pri dici dici dici dici cazza niga tre che più avvocato Agnelli Umberto Agnelli Susanna Agnelli Monti Pirelli tripla Causio che passa Tardelli Musiele Antonioni Zaccarelli tre che più Gianni Brera tre che più Bearzot tre che più Monzo Panatta Rivera D'Ambrosio Lauda Teni Maurizio Costanzo Mike Buongiorno Villaggio Raffa Guccini Onorevole Eccellenza Cavaliere Senatore Nobil Donna Eminenza Monsignore Vossi Asceri Mon Amour tre che più sale il numero 5 sta in panchina si è alzato male stamattina mi si è consentito dire tre che più il nostro è un partito serio certo disponibile al confronto d'accordo. Nella misura in cui alternativo Rino Gaetano non tregge più. Bene, bene, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Anche oggi ci tengo a darvi le ultime informazioni su Eufonica, che come vi avevo anticipato è un evento di Bologna Fiere Group. Si terrà infatti negli spazi fieristici di Bologna ed è in collaborazione oltre che con il Ministero, la Regione Emilia Romagna, Ministero dell'Istruzione, scusatemi, ma anche con delle realtà nostre molto vicine a noi, perché sono collaborazioni dirette e siamo noi. E sono Officina Musica Attuale, Agenda Produzioni per lo Spettacolo e tra i media partner abbiamo Radio Città Fujiko. Quindi vi aspettiamo tutti a Eufonica, il sito ve lo ripeto è eufonica.it per iscrivervi e registrarvi gratuitamente e partecipare a queste giornate per venire al nostro laboratorio fantastico che vi divertirete un sacco. Io lo so che ci divertiremo tutti un sacco, quindi vi aspettiamo il 10 e l'11 maggio negli spazi di Bologna Fiere e intanto io vi saluto, vi dico che sicuramente ci risentiamo mercoledì prossimo con qualche news già dal laboratorio di Eufonica, quindi qualcuno di voi probabilmente si sentirà già in radio. Ciao! E allora amore, io ti amo, che bella,